Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo chiaramente anche del braccio di ferro, contrapposizione tra governo e autostrade, o meglio Atlantia, che ha l'80% di autostrade per l'Italia, tema della revoca, ma non solo, di nuovo dichiarazioni soprattutto degli esponenti dei 5 Stelle molto secche su questo. Faccio notare che questa mattina era ospite di Radio 24, lo ascolteremo, l'ex ministro Toninelli, oggi il vice ministro sviluppo economico Stefano Buffagni ha detto, a margine di un evento, bisogna dare risposte concrete. Quello che è successo 2 anni fa è un fatto inqualificabile. I Benetton devono uscire, secondo noi, dalla gestione delle nostre autostrade. Non abbiamo dubbi, se qualcuno ha altre idee noi siamo anche disponibili a lasciare. Chiaro che è una provocazione, però questo nel giorno in cui ne parleremo. Tomasi, il nuovo ministro delegato, è stato indagato per la posa di pannelli antirumore, ma non in quanto AD, ma perché era parte del comitato. Poi ha risposto Tomasi, che ha detto non aveva nessuna competenza sulle barriere fonoassorbenti. Di questo, dicevo, parleremo. Oggi il titolo è in leggero recupero dopo il calo pesante di ieri e dell'altro ieri, più 2,40% Atlantia. Visto che parliamo di borsa, do anche le altre variazioni, a partire dall'indice: più 1,20% Milano, più 0,90% Parigi, più 1,12% Francoforte, più 0,80% Londra, Dow Jones più 0,70%. Dicevamo dei titoli: ST Microelectronics più 4,70, Interpump più 3,20, Atlantia appunto più 2,40, Mediobanca più 2,30, CNH più 2 come Unicredit e Banca Mediolanum. Chi perde, ricordati, l'1,1, Saipem meno 0,70, Snam mezzo punto percentuale, Terna anch'essa mezzo punto percentuale di calo, e Inuit meno 0,40%. Al di là dell'aggiornamento, diciamo, sul confronto, scontro tra governo e Atlantia e soprattutto Autostrade per l'Italia, gli altri temi oggi riguarderanno, da un lato, di nuovo i temi europei. Ci sono dichiarazioni sul Recovery Fund, la proposta del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel è rimasta intatta, cioè 750 miliardi di euro, con una proporzione di 2/3, 500 miliardi trasferimenti a fondo perduto e 250 miliardi prestiti. E questa è l'occasione, ne parleremo oggi, anche perché il Premier Conte, dopo essere stato alla più che inaugurazione, alla dimostrazione pratica dell'operatività del MOSE, che sarà il tema di apertura, visto che il MOSE è un'opera che si trascina dal 2003 e nel 2012 era prevista la fine dei lavori, ora si parla del dicembre del 2021, c'è chi spera anche dicembre di quest'anno. Ricorderete che il consorzio Venezia Nuova è stato indagato e ci sono stati scandali, arresti che hanno coinvolto anche l'ex presidente della regione Veneto Galan, l'ex presidente del consorzio Venezia Nuova Mazzacurati, nel frattempo deceduto, e inchiesta della magistratura con condanne. Maxi operazione 2014, ne parleremo. La cosa importante, dicevo, che oggi il Premier, assieme al Ministro De Micheli, assieme al Sindaco di Venezia Brugnaro, al Governatore del Veneto Zaia, hanno assistito all'innalzamento delle paratie e poi alla loro discesa. Dopodiché Conte sta arrivando adesso in Olanda, perché questa sera vi sarà una cena, chiaramente un incontro istituzionale col Premier olandese Rutte. E questo fa parte del tour che sta compiendo il Presidente del Consiglio dopo aver visitato Lisbona e Madrid. Sarà interessante capire cosa esce dall'incontro di questa sera, ma lo leggeremo sui giornali o sulle agenzie, non certo in diretta a Focus Economia, ma sarà l'occasione per parlare con un famoso uccellaccio, spesso nostro ospite, mi riferisco a Giulio Sapelli, dell'apertura europea, ma anche delle resistenze europee, del Recovery Fund e del MES, visto che qualcuno ogni tanto mi scrive, ma lei non invita mai nessuno contrario al MES, non invito persone che, di cui non rispetto il giudizio personalmente, ed è una mia libertà. Invece Sapelli è, lo ha scritto da più parti, molto scettico sul MES e sulle condizionalità, e lo invitiamo anche per sentire le sue obiezioni e criticità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Partiamo dalle notizie di carattere internazionale. Perché lo dico? Da un lato dobbiamo segnalare un ulteriore record di casi negli Stati Uniti, 65.000 nuovi contagi in sole 24 ore. In totale i casi sono 3.110.000 negli Stati Uniti, le vittime oltre 133.000. Vedo che qualcuno mi chiede anche dell'ipotesi di prorogare lo stato di emergenza, ne parleremo fino al 31 dicembre. Vi ha accennato proprio a margine della operazione di innalzamento delle paratie del Mose il Premier Conte. Posso anche parlarne subito, anche se era una notizia di carattere italiano. Che cosa è successo? Anzi, facciamo così, andiamo con ordine, lo spieghiamo dopo, perché la proroga dello stato di emergenza ha implicazioni molto importanti di carattere sanitario, ma non solo. Volevo continuare con le notizie però di carattere internazionale, perché al di là degli Stati Uniti oggi le attese delle banche americane, le trimestrali che arriveranno nei prossimi giorni, dovrebbero avere purtroppo il trimestre peggiore dal 2008. Per quello che riguarda invece il rapporto del Fondo Monetario Internazionale, il Fondo Monetario Internazionale ha fatto notare che per rispondere all'emergenza del coronavirus vi è stata un'iniezione senza precedenti di denaro pubblico, 11.000 miliardi di dollari a livello mondiale, che ha fatto schizzare il debito pubblico a livello più alto della storia, superando anche il picco della Seconda Guerra Mondiale. Questo è abbastanza incredibile, per alcuni versi anche inquietante. Cioè, se si prende il PIL mondiale del mondo e si va a guardare il debito emesso in questi ultimi mesi, si scopre, un po' come facciamo quando parliamo del debito rispetto al PIL italiano, che viaggia ampiamente sopra il 130%, ma dicevo, il PIL mondiale, il debito mondiale è salito al 101,5% del PIL, il che vuol dire sostanzialmente che il debito finora emesso è pari a più di quanto produce l'intero mondo, l'intera pianeta, in un anno quanto a PIL. Debito complessivo, non è che tutto l'abbiamo emesso adesso. Però quello che fa notare il Fondo Monetario è che negli ultimi mesi per l'emergenza Covid sono stati emessi 11.000 miliardi di debito in più. E poi il Fondo Monetario dice: attenzione, la politica e quindi lo Stato devono continuare a sostenere l'economia e deve restare flessibile la politica di bilancio fino a quando non sarà assicurata una via d'uscita sicura e durevole. Un rientro prima del previsto dagli stimoli, cioè tornare a stringere i rubinetti, può presentare il rischio di deragliare la ripresa. E a proposito della ripresa, oggi ci sono dati interessanti anche sulla produzione industriale italiana, perché qui bisogna stare attenti. Ho visto dichiarazioni positive del ministro Gualtieri, che dice i dati sulla produzione industriale sono incoraggianti. E anche il presidente dell'Istat Blangiardo dice: attenzione, ci sono le premesse per rialzare la testa, dobbiamo essere consapevoli, si ha la sensazione dai primi dati del mese di maggio, si ha la sensazione che una qualche inversione di tendenza vi sia e siamo forse nella direzione giusta. Oggi, adesso dobbiamo rimboccarci le maniche. Perché lo dico? Perché la produzione industriale di maggio, se la si guarda a livello congiunturale, quindi rispetto ad aprile, ha fatto un balzo, più 42%. Ricordo però che tra inizio maggio, 2 maggio, adesso vado a memoria, e poi il 18 maggio, ma la parte della produzione industriale, quindi la manifattura, aveva già aperto prima, la parte ancora non chiusa, è ovvio che a questo punto c'è stato un balzo. Però, per quanto possa entusiasmare, per carità, hai riaperto tutto a maggio, ma soprattutto la parte manifatturiera e industriale l'hai aperta a inizio maggio, e il raffronto va fatto col maggio di un anno fa, e lì sono dolori. Per cui il bicchiere può essere mezzo pieno se uno guarda maggio su aprile, però poi quando un'impresa va a vedere il fatturato e fa il raffronto con un anno prima, si scopre che la produzione industriale rispetto a maggio del 2019 è sotto del 20%, che vuol dire che complessivamente un quinto della produzione industriale manca all'appello. Ora, non è, ma per dare un'immagine plastica, è come se un incapannone su 5 stesse ancora chiuso. È chiaro che non è così, perché un meno 20 che diventa meno 30 in alcuni casi, meno 10 in un altro, e si spalma. Però, per dare un'immagine, diciamo così, forse plastica, immaginate che un capannone su 5 capannoni, uno sia ancora, capannoni, fabbriche, sia ancora chiuso. E nel frattempo veniamo alle richieste del fondo di garanzia. Sono arrivate a 50 miliardi con 811 mila domande, di cui 707 mila per la quota fino ai 30 mila euro per oltre 14 miliardi. Le altre 100 mila domande valgono invece 36 miliardi, perché sono domande per la parte più corposa. Da questo punto di vista ci sono le varie soglie, e quindi fino a 30.000 euro con la garanzia il 100% dello Stato, poi si sale 400 fino al milione. E nello specifico sono 100% garantito fino a 30.000 euro, poi 100%, di cui 90% dello Stato, 10% dai Confidi, fino a 800.000 euro, 90% garantito nei casi con un tetto fino a 5 milioni di euro, a cui possono accedere complessivamente le imprese fino a 499 dipendenti che abbiano ricavi fino a 3.200.000 euro. Da quella dimensione in su, ricordo che invece interviene la Cassa Depositi e Prestiti. Dicevo, 50 miliardi complessivamente i finanziamenti richiesti dalle banche al fondo di garanzia nel giorno in cui l'ABI ha rinnovato per acclamazione Antonio Patuelli come presidente. In bocca al lupo per il nuovo mandato anche Antonio Patuelli, e nel giorno in cui la Banca d'Italia ci ricorda che al di là del fatto che ha due stime diverse, meno 9,5% quest'anno se la pandemia sarà sotto controllo in Italia a livello globale, meno 13 se c'è una seconda ondata, ma io sarei un po' cauto su questo. E poi ancora, per quello che riguarda invece i prestiti, la stessa Banca d'Italia fa notare che c'è stato un aumento dei prestiti alle imprese tra marzo e maggio dell'11,5%, quindi tiene conto solo del periodo marzo-maggio, beneficiando anche degli interventi di sostegno alla liquidità da parte del governo. Sì, ha ragione chi mi dice: attenzione che sui prestiti garantiti deve essere il 25% del fatturato, se non è che tu puoi chiedere 30.000 euro con un fatturato fino al massimo del 25% del tuo fatturato. Quindi se tu fatturi 60.000 euro devi fare il 25% di 60.000, non i 30.000 sono il tetto massimo per il 100%, diciamo. Ancora due notizie prima di passare al tema concessioni autostradali. Allora, per quello che riguarda il turismo, tema che stiamo seguendo quasi quotidianamente, oggi a Stoi Confindustria, quindi chi rappresenta il comparto del tour operator, ha chiesto interventi urgenti al Ministero e al Governo e concreti per la sopravvivenza dei tour operator. Chiaramente, poi la battuta che continua a fare da giorni, ogni famiglia è infelice a modo suo. È chiaro che un conto è parlare del settore alberghiero in senso stretto, del settore ristorazione in senso stretto. Poi, se tu parli dei tour operator, c'è da capire chi in questo momento si sta rivolgendo a un'agenzia di viaggi per fare viaggi, soprattutto quelli, diciamo, più distanti all'estero. Direi pochissimi, se non quasi nessuno. Molti viaggi, molte tratte nazionali o anche semplicemente europee vengono comprate online, lo sappiamo, non hai bisogno dell'agenzia di viaggio, del pacchetto offerto del tour operator. E così come avremo ospite a breve anche tutto il settore del catering e delle mense, che può sembrare una cosa minore, non lo è, e chiaramente in questo momento è tutto fermo anche lì. Quindi non basta dire turismo per fotografare nel dettaglio la situazione. Dicevo, a Stoi chiede un intervento immediato del governo per un comparto che vale 80.000 persone che vi lavorano, e tra l'altro sono praticamente rappresentano uno snodo importante del mondo del turismo, che vale complessivamente in Italia il 13% del PIL. Sentiamo Pierre Ezzaia, consigliere delegato di Astoi Confindustria, che appunto rappresenta il 90% del mercato dei tour operator in Italia. A 4 mesi dall'inizio di questa profondissima e violenta crisi che ha colpito il nostro paese, dopo il decreto Cura Italia, che purtroppo non ha previsto alcuna misura di sostegno per il turismo, tante aspettative erano state riposte nel decreto Rilancio. Purtroppo anche questo decreto, come il precedente, non ha riservato alcuna misura di sostegno per tour operator e agenzie di viaggi, che purtroppo si accingono a guardare il futuro, con il proprio futuro, con grande preoccupazione e grande incertezza. Migliaia di posti di lavoro sono a repentaglio, circa 80.000, molte imprese rischiano di non proseguire la propria attività perché nulla è stato fatto in loro difesa. Chiediamo alla Presidenza del Consiglio, al Ministero del Turismo e al Ministro dell'Economia di prendere atto di questa gravissima situazione del nostro comparto e di porre al più presto soluzioni atte a dare continuità alle imprese che lavorano in questo importante settore economico. Dunque, vedo messaggi che riguardano il prestito appunto fino al 25% del fatturato e per un massimo di 30.000 euro se lo vuoi garantito al 100%, e poi, come ho spiegato, gli altri scaglioni. Qualcuno mi scrive: ma è normale che dopo un mese dalla presentazione non sappia ancora niente? No, non è normale e deve fare richiesta. Abbiamo commentato ieri anche la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, che ha dato ragione a un imprenditore che si era visto rifiutare il prestito. Non è normale, i tempi di pratica che ci dicono le banche sono tra i 10 giorni e 2 settimane, comunque una risposta va data. Ancora qualcuno mi chiede dell'eco bonus, e qui ho gioco facile, nel senso che domani su Sole 24 Ore vi saranno 4 pagine dedicate proprio alle regole sul bonus del 110%. Praticamente è il super sconto per i lavori edilizi che vale fino al 110% del lavoro stesso, che può essere utilizzato anche per le seconde case, tranne che per le residenze di lusso. È recuperato come credito d'imposta o può essere ceduto anche al fornitore e a banche o alle poste, con una serie di nuove modalità. Ripeto, 4 pagine, perché dentro l'eco bonus bisogna stare attenti, come sempre, non puoi buttarci dentro tutto, ma tutto ciò che migliora, diciamo, crea un efficientamento energetico e ambientale della tua abitazione, anche seconda casa, ha fino all'anno prossimo appunto il 110%, non è poco. Veniamo all'ultimo punto, la proroga dello stato di emergenza, poi passeremo alla parte invece autostradale. Allora, dicevo, il Premier Conte, a margine della cerimonia generale del MOSE, ha detto ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio. Non vi dovrete sorprendere se la decisione sarà di prorogare lo stato di emergenza, perché se non prorogassi lo stato di emergenza non avremo più neppure i mezzi, gli strumenti per continuare a monitorare, per poter intervenire e, se del caso, circoscrivere chiusura di attività in territori molto predeterminati e circoscritti. Quindi ragionevolmente non deve sorprendersi nessuno, ma prorogheremo, ci avviamo verso la proroga dello stato di emergenza. Oh, qui bisogna capirsi, perché il Premier diceva abbiamo gli strumenti. È vero, perché lo stato di emergenza permette, tra le altre cose, a Palazzo Chigi, al governo, di fare ricorso a nuovi DPCM che, come abbiamo imparato, li abbiamo conosciuti come marzo, aprile, maggio. Il DPCM è uno strumento legislativo che non ha bisogno di passare al varo delle Camere, al contrario dei decreti che, per essere trasformati in legge, poi devono passare alle Camere. E quindi la Protezione Civile manterrà un ruolo centrale anche in vista della riapertura delle scuole. E attenzione, ma qui aspetto che arrivi la notizia: lo stato di emergenza scade il 31 luglio. Varranno anche le regole fino adesso in vigore per il cosiddetto smart working o lavoro a distanza, con tutto un insieme di implicazioni per i soggetti economici, quindi mondo dei servizi, commercianti, che operano nei luoghi dove si trovano gli uffici dei gruppi, delle banche, delle assicurazioni, dei ministeri, dei privati e quant'altro. Quindi adesso andiamo sul meteo, poi prima la contesa, lo scontro governo autostrade per l'Italia, e poi invece il Mose. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. minuti. Allora, Conte, il Premier Conte, la procedura per la revoca terminerà a breve. Abbiamo completato l'opera del Ponte di Genova in tempi talmente rapidi che non abbiamo ultimato nemmeno la procedura di revoca. Vabbè, adesso non è che la colpa è che ci ha messo meno tempo del previsto, però andiamo avanti. Il ministro De Micheli: abbiamo ancora poche ore per attendere la risposta da Autostrade per l'Italia. E ancora il PD chiede: dalla gestione di Autostrade per l'Italia sono emerse gravi inadempienze, revoca o radicale revisione della concessione. Il sottosegretario del PD all'ambiente Roberto Morassut. Anche Renzi dice: chi ha sbagliato paghi, ma decidano i magistrati. Il ministro Di Maio: servono decisioni nette, un atto di giustizia. E l'ex ministro Toninelli, questa mattina ospite con Simone Spezia e Maria Latella a 24 mattina, ha negato di aver mai visto la lettera in cui si, ieri anticipata da alcune agenzie, in cui si diceva sostanzialmente che, salvo modifiche, il ponte sarebbe stato consegnato alla società che gestiva la rete, quindi Autostrade per l'Italia. È una stupidaggine galattica. Voi sapete che i funzionari del Ministero hanno costante e continuative interlocuzioni con tutti gli organi amministrativi con i quali sono in rapporto. In questo caso c'era la struttura commissariale creata con il decreto Genova del ponte per la demolizione e la ricostruzione del ponte di Genova. Quella fa parte dei tanti riti ordinari di comunicazione e interlocuzione tra una direzione e appunto queste strutture, che non passano sulla scrivania del Ministro. Tant'è vero che o nella stessa lettera, che non ho mai visto, o nella lettera successiva, lo stesso pezzo che l'ha riportato dichiara, che ha indicato chiaramente la frase "salvo ovviamente l'assegnazione ad un diverso concessionario". Quindi è purtroppo una notizia costruita d'arte, come tante ne sono fatte. E poi Toninelli, un po' sulla falsa riga di quello che poi ha detto anche Buffagni, viceministro, cioè via Benetton o pronti a lasciare il governo, dice: attenzione, c'è un rischio, ci sono grossi rischi per il governo, ci siamo fidati del PD, ma il vice ministro Cancellieri non è stato messo a corrente della trattativa tra il ministro De Micheli con Aspi. C'è il rischio che ci siano enormi problemi, questo oggettivamente sì, però mi permetto di dire una cosa. La domanda va ribaltata al Partito Democratico, io penso in questa maniera: quali sono le motivazioni per le quali il PD ritiene che non ci siano sufficienti condizioni per revocare? Quali sono? La Corte dei Conti ha detto che il contratto è illegittimo, la Corte Costituzionale ci ha dato ragione, i tecnici hanno detto che non avevano mantenuto gli obblighi di manutenzione, i giuristi hanno detto che è un grave inadempimento che viola la legge. Quali sono le condizioni per le quali non si possa revocare? Non ci sono. E iniziamo, sì, questo sì è vero, iniziamo ad innervosirci, perché ci siamo fidati, ed ora però la promessa era, da parte del PD, della De Micheli, era che si sarebbe chiuso, e ora ci rendiamo conto che il nostro cancelliere non sapeva nulla della trattativa o della non trattativa che si stava portando avanti, e che dall'altra parte non c'erano delle condizioni o delle proposte serissime, forti, di miliardi, altro che 2 o 3 miliardi, 5 miliardi almeno, che ci devono dare cash come risarcimento, oltre a tutto il resto, abbattimento dei pedaggi e tantissime altre cose. Allora, nel frattempo Roberto Tomasi, attuale amministratore delegato di Autostrade, è stato iscritto sul registro degli indagati nell'inchiesta sulla posa dei pannelli fonoassorbenti sulla rete autostradale. In alcuni casi si sono staccati, la contestazione è che la posa non sia avvenuta con i criteri corretti, non in quanto amministratore delegato, ma perché a suo tempo era presente, faceva parte del Comitato Nuove Opere, l'organo tecnico che valutava gli investimenti di Autostrade per l'Italia prima che fossero sottoposti al Consiglio di Amministrazione dell'azienda per essere finanziati. C'è una nota di Autostrade per l'Italia che chiarisce che l'attuale AD, Roberto Tomasi, non aveva competenze sulle barriere fonoassorbenti e prendeva parte al Comitato Grandi Opere solo per presentare altri progetti. Su questo segnalo che, mentre c'è una nota del Ministero dei Trasporti che nessun regalo ai Benetton è stato fatto per l'aeroporto, per la costruzione della quarta pista di volo per l'aeroporto di Fiumicino, inserito ed è anche l'opposto, dice il MIT, perché è inserito nell'allegato infrastrutture tra gli interventi che necessitano di una revisione. La ministra De Micheli ha manifestato in più occasioni la sua contrarietà a quel progetto, e insieme a quell'opera va ripensata comunque l'intera strategia dello sviluppo dell'aeroporto collegato a quel progetto. Mentre sul fronte autostradale segnalo che noi ci occupiamo della Liguria, che sta rischiando è un eufemismo, un altro weekend 12-14 km di coda, però come già abbiamo fatto notare già ci sono 6 km, poche ore fa erano già 6 km, ma c'è un altro tratto autostradale, ne abbiamo già parlato in parte, che è quello marchigiano, e quindi la A14. Come ha ricordato la vicepresidente Regione Marche, assessore alle infrastrutture con delega all'emergenza per la A14, Anna Casini, ospite della nostra Maria Piera Ceci a Effetto Giorno. Qui viviamo una situazione da ormai oltre un anno drammatica. Le barriere dell'autostrada ci costringe a camminare e a percorrere l'autostrada soltanto ad una corsia. Detto questo, c'è stata un'accelerazione ultimamente. Autostrada ha presentato, anche se tardivamente, negli ultimi giorni di giugno, i progetti per la rimozione delle barriere. Il MIT ha dato il parere in 4 giorni, devo dire, e dal lunedì scorso i progetti sono stati inviati con la richiesta di dissequestro alla Procura di Avellino. Dovrebbe dissequestrare in qualche giorno. Questo vorrà dire, Casini, possibile, che avremo un'autostrada almeno a 2 corsie. Esatto, avremo un'autostrada. Cioè, stiamo parlando di sperare di avere un'autostrada a 2 corsie, quindi a insomma. 2 corsie ridotte. Rendiamoci conto. Senza, esatto, noi stiamo sperando di avere un'autostrada a 2 corsie. Senza la parte, insomma, diciamo, di sicurezza, 2 corsie ridotte, ristrette. Situazione completamente diversa, però il governatore Toti e gli amministratori locali della Liguria vogliono fare causa, sostanzialmente portare le carte in tribunale contro il governo. C'è nervosismo da parte anche del mondo produttivo della zona? In tal senso, voler chiedere danni comunque, perché di danni ne stanno accumulando parecchi. Allora, però l'obiettivo credo che sia diverso. Io avevo chiesto ad Autostrade di togliere il pedaggio l'anno scorso, ma non soltanto perché per una compensazione al fatto di pagare un pedaggio ed essere fermi, soprattutto per gli autotrasportatori che comunque hanno dei tempi fissi e quindi danno agli autotrasportatori almeno enorme, chiedere una riduzione del pedaggio, ma per evitare perché fosse da deterrente allo spostamento del traffico sulla statale 16 e sui lungomari, perché questo è il danno gravissimo anche al turismo e il disagio enorme per i residenti. Ora io dico una cosa, vediamo come va la vicenda. A me interessa che lo Stato non paghi soldi, diciamo, agli azionisti di Autostrade Italia e Atlantia per via delle penali. Però ad Autostrade per l'Italia dico molto banalmente, ma cosa ci vuole? Non so. O è una tattica, una strategia, quella di creare, diciamo, sempre più attriti con l'opinione pubblica, ma non capisco l'obiettivo finale. Ma cosa ci vuole, visto che hai un'autostrada che lavora con una corsia in alcuni tratti, per via di ponti che sono crollati anche lì, viadotti per essere precisi, scusatemi l'imprecisione, e sicuramente non è colpa degli automobilisti, in questo caso neanche del governo, perché ce l'hai in concessione tu. Ma cosa ci vuole nel momento in cui obblighi le persone a fare chilometri e ore di coda? Io l'avrei proprio a sospendere i pedaggi come atto di decenza. Non sono certo mancati dividendi né ad Atlantia né a Sintonia dei Benettoni in questi anni, no? E poi voglio dire, sta facendo sacrificio tutta l'Italia, fate sacrificio anche voi. Vorrei capire qual è la strategia di stare così, diciamo, una parolaccia, di avere questo atteggiamento che è incomprensibile, anche perché già hai altri fronti aperti. Non è che proprio tu goda di buona stampa, come si suol dire in questi casi, ma fai un'azione unilaterale e sospendi o riduci sti pedaggi, almeno il segnale. Poi ti chiedi perché si va verso l'esproprio. Beh, voglio dire, hai fatto, sia come mancati investimenti che come atteggiamento in questi anni, il possibile per arrivare a uno scontro politico con quello. Come si fa a difendere in questo momento gli azionisti Atlantia e la famiglia Benetton con la gestione dopo 2 anni che sono morte 43 persone su un ponte? Dai, traffico appunto. Focus Economia. Sì, ha ragione anche chi mi dice: guardi che da 3 ore che sono fermo in Abruzzo. No, vabbè, ma insomma, magari in qualche università un giorno si studierà la strategia di comunicazione di Sintonia, di Atlantia, per appunto come case studies, ma all'opposto. Cioè, cosa non fare. Vabbè, andiamo sul Mose. Mose, è dal 2003 che ce ne occupiamo del Mose. Per fortuna oggi ce ne occupiamo in maniera positiva, perché sapete che in questi anni sul Mose è successo di tutto: scandali, inchieste della magistratura e quant'altro. Perché lo dico? Perché l'opera del 2003-2012 era prevista alla fine dei lavori. Adesso è, come ha chiarito oggi anche il commissario Spitz, attenzione, dopo l'inaugurazione di oggi, però il Mose potrà essere operativo, se necessario, già in autunno sarà possibile innalzare le paratoie, però per essere definito finito ci vorranno altri 18 mesi. Nel 2014 una raffica di arresti, tra cui Giovanni Mazzacurati, accusato di essere il regista di un sistema di mazzette del consorzio Venezia Nuova, Tangenti, pagava tutti per oliare il percorso delle dighe mobili. Oliare mi sembra quanto mai appropriato. E poi mazzette anche per i sassi delle dighe, 60 milioni di euro in più rispetto al prezzo normale. L'ingegnere Mazzacurati è deceduto nel 2019. E poi lo scandalo ha travolto anche il governatore Giancarlo Galan, è andato in carcere l'imprenditore Pier Giorgio Baita, ex amministratore delegato della Mantovani, e Claudio Minutillo, ex segretario di Giancarlo Galan, scusatemi, e le loro dichiarazioni sono la base dell'inchiesta. In 5 anni il consorzio Venezia Nuova avrebbe versato Tangenti per oltre un centinaio di milioni di euro. E si è andati avanti anche fino al 2019. La procura ha ordinato il sequestro della villa di Cortina d'Ampezzo dell'ingegnere Mazzacurati, acquistato con proventi illeciti, e ha chiesto anche a Galan, e ha sequestrato a Galan 12 milioni e 300 mila euro in conti correnti, quote societarie e immobili. alla luce appunto dell'inchiesta sui proventi illeciti. Però adesso noi parliamo del MOSE, che dopo essere stato commissariato, oggi c'è stata la presentazione, diciamo, non appunto definitiva. Jacopo Giliberto, che era a Venezia a seguire l'intera cerimonia, buonasera. Buonasera Sebastiano e buonasera a tutti. Si chiama prova generale di innalzamento, se ho ben capito, e per la prima volta tutte le 78 dighe mobili che, diciamo, bloccano in caso di necessità l'ingresso dell'acqua di mare diciamo all'altezza delle bocche di porto, più o meno, ma non proprio le bocche di porto, sono entrate in funzione e si sono sollevate alle tre bocche di porto del Lido di Venezia. Le bocche di porto, lo dico per chi non lo sapesse, è dove l'acqua del mare entra in laguna, fatte dai veneziani, e hanno separato la laguna dal mare. Come è andata? Tecnicamente è difficile descriverlo in radio, ma insomma, problemi, e soprattutto si temeva poi l'abbassamento. Queste paratoie sono messe in alcuni nei cassoni. Quando si alza è una cosa, quando devono riabbassarsi devono tornare in questi cassoni. Il timore è che se nel frattempo più la paratoia è alzata, più nel cassone entra sabbia o residui fangosi del mare, poi quando la paratoia deve abbassarsi non riesce a chiudersi completamente. Ho spiegato forse un po' modello Lego, ma spero di essermi fatto capire. Jacopo. Hai spiegato correttamente, cioè questi grandi cassoni che formano, che sono le paratoie, che sono degli enormi scatoloni d'acciaio che vengono riempiti d'aria per farli galleggiare, e messi uno a fianco all'altro formano queste dighe, le dighe per trattenere l'acqua alta al di fuori della laguna, ed escono da degli alloggiamenti che sono di calcestruzzo ovviamente. Il flusso di marea, però, questi grossi vortici che si formano, può trascinare negli alloggiamenti sabbia, detriti, sedimenti, e quando è finita l'acqua alta il fenomeno, l'abbassamento il ritorno dei cassoni potrebbe essere ostacolato. Questo è uno dei problemi possibili, ovviamente è un problema risolvibile. Abbiamo visto oggi per la prima volta nella storia la laguna è stata separata dal mare, la prima volta dai millenni di esistenza della laguna, non era mai successo prima. Tutte le tre bocche di porto hanno separato le acque come il Mosè biblico, mm-hmm. È stata separata la laguna dal mare da questi grandi cassoni allineati. Prego. Ecco, devo dire che c'è stata praticamente misurando l'altezza dell'acqua della laguna rispetto all'altezza dell'acqua del mare, adesso lo dico male, ma per farmi capire anche qui, la laguna faceva dopo il sollevamento delle paratie 18 centimetri sul medio mare, e invece oltre le barriere si era a 50 centimetri sul medio mare, quindi vuol dire che c'è uno scarto di 32 centimetri tra l'altezza dell'acqua della laguna e l'altezza del mare fuori. Sì, naturalmente era una prova fatta con una marea non molto imponente, cioè. In questo caso il massimo, il culmine di marea è stato toccato attorno alle 4, alle 16, alle 4 del pomeriggio, 16:35, con un livello totale di marea di 65 centimetri, una marea decisamente serena e tranquilla, naturalmente. È chiaro che in caso di maree molto più importanti, il MOSE verrà sollevato quando sarà finito completamente, non è ancora finito del tutto, quando l'acqua alta supererà il 1,10 m, e per evitare che vada oltre il 1,10 m. Fino al 1,10 m sarà accettata, anche se alcune zone della città, per esempio San Marco che è il più basso di Venezia, e va sotto, mentre Dorso Duro per esempio no, lo dico da metà veneziano, non è che ho studiato solo prima della diretta. Allora Jacopo, resta con noi, perché vorrei capire invece che cosa manca per il funzionamento completo, per dire, perché appunto il commissario Spizza ha detto servono ancora 18 mesi, anche se in autunno, perché l'alta marea, l'acqua alta purtroppo arriva in autunno, come abbiamo scoperto anche l'anno scorso a novembre, un bel preludio per il 2020 per Venezia, e si sono alzate in 90 minuti invece che in 30 minuti, ma diciamo, vorrei capire che cosa manca alla parte finale, però dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Il nuovo ciclo di Un luogo, una storia, ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Gli sbarchi degli anglo-americani nelle spiagge della Sicilia e Anzio, Cassibile e l'armistizio dell'8 settembre 1943. Milano, Firenze, Napoli, Genova e Torino. Il viaggio lungo la linea gotica da Massa alle Marche. Sono Daniele Biacchesi, vi narrerò le piccole storie che attraversano i posti e la grande storia, ogni venerdì in podcast su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei concludere l'approfondimento sul MOSE. Mancava da capire con Jacopo Ciliberto, che ha seguito tutta la cerimonia oggi, perché che cosa capiterà nei prossimi 18 mesi. Su questo vorrei far sentire però un passaggio del Premier Conte in occasione appunto della cerimonia di innalzamento su cosa fare prossimo autunno-inverno. Ci sono dei movimenti di protesta, è giusto che si abbia una visione articolata e dialettica, però oggi io dico anche a chi sta protestando e a tutti quei cittadini intellettuali che hanno grandi perplessità su quest'opera: concentriamoci sull'obiettivo, dobbiamo augurarci tutti che funzioni. Noi non abbiamo progettato quest'opera, siamo arrivati all'ultimo miglio. Una politica responsabile di fronte all'ultimo miglio, di fronte ai miliardi, più di 5 sono stati ricordati, che sono stati spesi, si assume le proprie responsabilità e decide che con un ulteriore sforzo finanziario quell'opera si completa e ci si augura che funzioni. L'opera andrà completata, ci saranno tutti i collaudi poi formali, e la completeremo nel 2021, però noi abbiamo anticipato anche i tempi. Se questo funzionamento risponderà alle nostre aspettative, noi il prossimo autunno, il prossimo inverno avremo quello che avevamo promesso, anche in anticipo rispetto al 2021, quando siamo venuti qui il 12 novembre e abbiamo assunto questo solenne impegno. Allora, Jacopo Giliberto, che cosa devono fare ancora? Perché, come ha detto anche il commissario alla conclusione del MOSE, Elisabetta Spitz, ci vogliono altri 18 mesi. Allora, dal punto di vista economico, parliamo di soldi, dal punto di vista economico, dei 5,5 miliardi stanziati finora, restano da erogare fisicamente, da rilasciare, circa 200 milioni. Sono i 200 milioni finali per completare gli ultimi dettagli. Che cosa manca dal punto di vista fisico? Ingegneristico, allora, sì. Ingegneristico. Allora, l'oggetto MOSE è finito. La parte cemento, calcestruzzo, acciaio, c'è tutta. La parte dei grandi impianti. Quello che manca è... immaginiamo in un'automobile, ecco, un'automobile completa, compresi finestrini, cristalli, gomme, motore, tutto quanto, manca la chiave d'accensione, cioè manca gli impianti di ridondanza, cioè i doppi impianti di sicurezza, tutti i sistemi di gestione. È stata fatta con sistemi di gestione provvisori, in questo caso i compressori per riempire d'aria i cassoni devono essere dei blocchi di compressori stabili, invece sono stati messi dei compressori provvisori per fare questo esperimento. Devono essere i cablaggi, il sistema informativo, il sistema di gestione, il software di gestione, ecco, sono cose più meno appariscenti, ma che sono la logica, il cervello del sistema. Quello che manca è il cervello, non le braccia. Potremmo dire, usando un linguaggio informatico, il software, non la scatola, non la parte, diciamo... Esattamente, non l'hardware. E infatti da lì si capisce perché un costo, tra virgolette, così basso, l'opera è costata tanto e costa troppo, lo aggiungo perché questo grazie anche agli scandali, ma insomma 200 milioni che sono fermi al provveditorato di Venezia, però che devono essere utilizzati per completare l'opera, e vedremo appunto come verranno sbloccati. Grazie intanto a Jacopo Giliberto in collegamento con noi da Venezia. Devo dare due notizie appena arrivate, anzi tre. La prima riguarda Autostrade per l'Italia, perché da quello che si capisce il tema della decisione del governo sulla concessione di Autostrade per l'Italia arriverà al Consiglio dei Ministri martedì prossimo. E poi invece, seconda notizia in breve, il collocamento del nuovo BTP Futura, titolo decennale dedicato ai risparmiatori, si è chiuso con una raccolta complessiva di 6 miliardi e 120 milioni di euro, e quindi poi vi sarà una nota più tardi del Ministero del Tesoro che comunicherà i tassi cedolari definitivi, che non potranno essere inferiori alle cedole già annunciate, cioè l'1,15% i primi 4 anni, l'1,30% dal quinto al settimo anno e l'1,45% dall'ottavo fino alla scadenza. Ultima notizia arrivata in breve dall'INPS, perché il presidente Tridico, intervenuto al forum della pubblica amministrazione, ha detto che l'INPS nel primo quadrimestre, quindi nei primi tre mesi, ha visto aumentare la sua produttività del 13%, e poi ha rivendicato il fatto che l'INPS ha raggiunto 11 milioni di lavoratori a cui hanno erogato prestazioni in questi due o tre mesi per un valore di 15 miliardi. E praticamente ha aggiunto, tra quelli che ricevono, ci sono 41 milioni che ricevono prestazioni ordinarie e 11 milioni che sono destinatari di prestazioni straordinarie da parte dell'INPS. Visto che parlavo del BTP Futura e dei soldi che l'INPS, con ritardo in alcuni casi, penso alla cassa integrazione in deroga o i 600 euro, ha erogato, dopo il traffico andiamo a parlare del MES da un lato e Recovery Fund dall'altro. Questa sera ci sarà l'incontro di Conte con il premier olandese Rutte. Focus Economia. Allora, 18-17 minuti, prima di ascoltare l'uccellaccio, due aggiornamenti. Allora, il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha proposto di mantenere intatto l'entità del Recovery Fund, quindi 750 miliardi di euro, con la proporzione di 2/3 a fondo perduto, 500 miliardi, e 250 miliardi invece di prestiti. L'accordo si tenterà di farlo al vertice del 17-18 luglio, ma il Premier Conte, dopo essere stato a Lisbona e a Madrid, adesso è atterrato in Olanda e incontrerà questa sera il Premier olandese Rutte, uno dei, diciamo, dei capi dei cosiddetti paesi frugali, che ho chiamato fregali, e quindi contrari ai prestiti e ai trasferimenti a fondo perduto. Però oggi è intervenuto anche sul MES il vicepresidente della Commissione Europea Dombrovskis. Il MES è la quarta gamba del tavolo europeo, c'è la BCE, c'è la BEI, ci sarà sto Recovery Fund e poi c'è il MES assieme al fondo SURE. L'Italia ha diritto fino al 2% del PIL per il MES Covid, quindi per spese sanitarie dirette e indirette, pari più o meno a 37 miliardi di euro, con tassi molto molto vantaggiosi per quello che riguarda gli interessi, con un risparmio di 500-600 milioni all'anno per 10 anni. Dombrovskis dice: all'Italia, visto il debito che ha, darebbe risparmi significativi. We adjusted the support of European Stability Mechanism very substantially. So abbiamo modificato sostanzialmente il tipo di supporto che il meccanismo europeo di stabilità può dare. Non ci sono condizionalità per accedere al finanziamento del MES. L'unica richiesta è che i fondi siano poi usati per spese sanitarie dirette e indirette relative alla pandemia da coronavirus. Le condizioni per il finanziamento sono molto convenienti. soprattutto per i paesi altamente indebitati che pagano tassi di interessi più alti. Per questi i prestiti del MES possono generare un sostanziale risparmio della spesa in interessi. Nel caso italiano si parla di centinaia di milioni di euro all'anno, parliamo quindi di un risparmio corposo, ma alla fine sono gli Stati membri a dover decidere se accedere o no a questo strumento. Allora, sentite dalla base di Camina Burana, c'è l'uccellaccio, professor Giulio Sapelli, buonasera. Buonasera, carissimo, buonasera. Mi fa sempre sentire la solita solfa, però. Vabbè, questa passa al convento. Allora, il MES... È la propaganda della guerra. Allora, sì, in sette anni... Il MES avrebbe per i primi anni un tasso negativo, meno 0,07%, e poi sul prezzo scadenza in 10 anni si arriverebbe allo 0,08%, contro attualmente un tasso di un BTP a 10 anni all'1,6%. Ecco da dove arriva il risparmio negli interessi. Oltre che le condizionalità, come diceva Dombrovski, sono per che deve essere utilizzato per spesa sanitaria diretta o indiretta, per esempio anche quella per mettere in sicurezza le... scuole. Vorrei un suo commento sul MES, ma anche sul tentativo, devo dire, la Merkel, che noi abbiamo molto criticato in questi anni, 2012, 2011, 2013, a mio avviso ha cambiato completamente rotta e sta facendo pressione perché anche i paesi che non sono d'accordo, visto che serve l'unanimità, votino a favore del Recovery Fund nel modo in cui lo ha illustrato Michel. Quindi MES e sforzo, diciamo, dell'Europa a partire dalla Germania. Prego. Sono due cose completamente diverse. Io ho spesso sottolineato in questi ultimi tempi il cambiamento lento e graduale che la cancelliera Merkel sta facendo nell'era del suo tramonto. Naturalmente una persona che ha solo sempre fatto tattica e mai strategia, ha sempre allontanato i problemi, non li ha mai risolti, adesso sembra un miracolo che voglia risolvere i problemi. Il problema del Recovery Fund è un'altra questione, il problema del MES è tutta un'altra faccenda. Allora, il Recovery Fund è una buona idea perché pone le basi per una sorta di federalizzazione del debito, dell'investimento e soprattutto della raccolta dei capitali. Quindi, in un impero come quello europeo, senza Costituzione, senza Stati di diritto, senza legge, sarebbe la necessità per la prima volta di, perché bisognerebbe trattare di costruire un sistema fiscale unitario, bisognerebbe per forza darsi una costituzione e uscire da questa post-democrazia non tecnocratica di nomina politico-partitica che è la burocrazia bruxelliana. Quindi può darsi che recava di conto. La questione del MES, innanzitutto, mi scusi tanto, io so che ho tanto rispetto di lei, ma la politica del pallottoliere non spiega niente, non spiega perché non c'è nessuna nazione europea che voglia aderire al MES, abbia pazienza. Lei sa l'obiezione, Sapelli, su questo, che dicono non, sì, a noi sarebbe particolarmente purtroppo, conveniente. Purtroppo no, leggo i giornali italici, anch'io, sono costretto, ma se lei legge Le Monde, il Financial Times, Il País, l'Opinion, l'Eseco e soprattutto l'Handelsblatt, c'è addirittura una corrente della Confindustria tedesca e un signore che si chiama Rottinger, leader della CDU bavarese, che dice basta con questo MES, perché non è vero che non ci sono condizionalità. Dombrovski mente. Vuol dire, e voi non avete mai letto il regolamento, perché è chiaro che non ci sono le condizionalità adesso, ma il regolamento 147, come lei sa bene, del 2012, dice che se si aumenterà il debito avendo preso questi soldi, anche se risparmi qualche punto in più del... Poi scusi, Dombrovski dice una cosa sbagliata: l'Italia non è un paese ad alto debito, l'Italia è un paese che ha un attivo privato, noi abbiamo le famiglie più attive in Europa. Se metti insieme il debito pubblico e l'attivo delle famiglie, noi siamo un paese virtuoso con degli avanzi primari virtuosi. Quindi queste cose che dice quel povero Dombrovski, che non sa dove dice, non sa dove vive, sono falsità. Allora, l'Italia ha un debito più sostenibile della Francia. Rileggevo in questi giorni un libro molto bello di Hoffinger che parlava del sogno dell'Europa e diceva queste cose qui. Rispetto alla Francia noi siamo molto... Sì, allora, professor Saperi, due obiezioni, perché anche il mio ruolo. Prima, altri dicono, attenzione, a livello di spread, cioè per quello che costa noi indebitarsi, per l'Italia è conveniente il MES. Per altri paesi invece è meno conveniente, che non vi siano condizionalità, nessuno l'ha mai detto. È chiaro che le condizionalità in questo caso sono dove investi questi soldi, non lo puoi utilizzare per abbassare le tasse. Però io vorrei capire da lei che alternative abbiamo per reperire liquidità, c'è chi individua per esempio un'obbligazione perpetua, e per quello che riguarda invece l'idea sostanzialmente che noi si sia, che il debito nostro non sia così, cioè deve essere paragonato al risparmio privato, Sapelli, io le do ragione. Però attenzione, perché se i due vasi devono diventare comunicanti, a casa mia questa si chiama patrimoniale. Cioè, se io devo iniziare a dire non guarda solo il debito pubblico, ma anche i risparmi privati, prima o poi qualcuno dice bene, mettiamo in collegamento risparmio privato degli italiani con il debito pubblico e per riequilibrare, a casa mia si chiama patrimoniale, no? Senta, lei l'ha detto due volte. Il tasso di parole che lei dice è sempre superiore al mio quando mi invita. Questo non mi va bene, amico. Vabbè, ma mi dia la risposta. Lei deve finirla, lei come ha, lei è più intelligente degli altri, poi è un uomo indipendente anche, a differenza di tanti altri. Voglio dire, basta col fare sta paura agli italiani. Il debito è sostenibile. Abbiamo avuto il più grande banchiere italiano, Bazzoli, che ha proposto non un'alternativa ai finanziamenti europei, ha proposto una proposta di un debito praticamente irredimibile. Ci sono proposte che hanno fatto funzionari egregi del Fondo Monetario, che ho visto che anche forze politiche l'hanno anche portato avanti. Ci sono la possibilità di accedere ai fondi, per esempio, del Fondo Monetario, sì, senza farla tanto lunga, senza spaventare nessuno, che non hanno veramente condizionalità. Mentre il MES nasce come European Monetary System per assistere i paesi in default. Quindi lei suggerisce i diritti di prelievo, per esempio, che abbiamo sul Fondo Monetario o un'obbligazione perpetua per raccogliere, per capire? Io preferirei un'obbligazione perpetua non irredimibile, e quindi non ha niente a che fare con una patrimoniale, è volontaria. Noi dobbiamo assolutamente dire agli italiani che non ci sarà una patrimoniale. Se invece andiamo con l'EMS, l'European Monetary System, nato per aiutare i paesi in default, i mercati ci massacrano, è per quello che non vogliono, gli altri paesi non vogliono spendere, perché diamo l'idea che abbiamo un debito non sostenibile. Lo spread salirebbe alle stelle il giorno dopo che abbiamo dichiarato. Un'ultima Conte, domanda perché, deve far dire una cosa. Conte è un irresponsabile, perché il primo marzo il Financial Times in prima pagina aveva un'intervista, una dichiarazione dove diceva Conte chiede l'MFS, il MES. Allora, tu, dato che l'hai chiesto, ha sbagliato, adesso non può andare in giro a cercare di negoziare per chiederlo. Senta, chi invece dice che se non chiediamo il MES, come facciamo poi a dire che abbiamo bisogno del recovery fund? Secondo lei è un parallelismo sbagliato? Ma lei pensi che la Francia, il Portogallo, il Belgio, eccetera, voglio dire, è vero che ci sono gli specialisti della borghesia venditora che vogliono consegnare l'Italia alla guerra economica, vendere tutti gli altri, ma non si può dire una stupidaggine del genere. Quindi secondo lei le due cose non sono collegate? Questo, dire una cosa così è fare del terrorismo economico, come quello che fate quando parlate di patrimoniale. No, io non ho mai parlato di patrimoniale, dico solo che se si mette... Però l'hai detto due volte. Sì, ho detto che a me preoccupa, Saperi, nel ringraziarla, preoccupa molto quando si continua, ma non lei, altri ospiti hanno detto la stessa cosa, cioè siamo un paese con un grande risparmio privato, il mio timore è che se continuiamo a dire questa cosa, i due vasi attualmente non comunicanti vengono messi in comunicazione, ma ho capito benissimo la sua obiezione su questo e anche sulla distinzione tra MES e Recovery Fund. Chiudo solo perché devo chiudere come orario, no? Se no starei a dialogare con lei, lo rifaremo ancora a lungo. Auguro a tutti gli ascoltatori un buon fine settimana, ringrazio come sempre Barbara Bianchi, Maria Sole Lisciandro per l'assistenza in redazione e in regia. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.